Io comincerei dando la parola a Davide di Ascatasuna, che intanto ringrazio di essere venuto qui con noi. Ci siamo conosciuti a Parigi in quelle lotte di cui si diceva prima, mi fa piacere rivederlo in questo contesto. E, insomma, tu in particolare, ma Ascatasuna e la realtà di, comunque, di cui fai parte, ha partecipato tanto alle lotte francesi quanto anche alle esperienze nord europee degli ultimi mesi di cui si diceva, partecipato attivamente, per cui insomma ti chiedo intanto di intervenire su questo. Sì, intanto vi ringrazio dell'invito, sì, dico due cose molto brevemente, sì, su quella che è stata una esperienza nostra, ma deve essere non solo nostra, come realtà antagoniste torinesi, di movimento anche in senso, come dire, triviale, di movimento per l'Europa in questi anni, andare in giro a cercare movimento quando magari qua c'era poco. E magari tirando fuori qualche considerazione politica su questa esperienza, cercando naturalmente di non annoiarvi. Visto che il tema comunque è sciopero metropolitano, blocco metropolitano e le novità che in qualche modo possono essere rappresentate da una dimensione metropolitana dello sciopero, chiaramente la prima cosa che viene da notare è che lo sciopero, bene o male, nell'età industriale, comunque in epoca capitalistica, è sempre stato un fenomeno metropolitano. Se oggi si parla di sciopero metropolitano e si intende che vi sia qualcosa di nuovo, qualche elemento di trasformazione delle pratiche di lotta in questo, è perché è soprattutto la metropoli essere cambiata e soprattutto il tessuto produttivo essersi modificato, per cui lo sciopero si agisce probabilmente non soltanto più su un livello che è quello dell'orario di lavoro giuridicamente determinato, come era soprattutto l'inizio insomma, della rivoluzione industriale, ma si agisce su un livello che invece ha a che fare con una crisi, comunque dei confini netti che ci sono tra lavoro, non lavoro, produzione, riproduzione, tutto quello che bene o male, insomma, sono tutti discorsi che bene o male i compagni e le compagne negli ultimi anni hanno cercato di masticare, che sicuramente gli interventi che seguiranno il mio sapranno illustrare molto meglio di quanto io possa fare. Però appunto non è tanto la dimensione spaziale metropolitana che rappresenta una novità, quanto piuttosto il livello di incisività che oggi certe pratiche di blocco o di sciopero, comunque comportamenti in qualche modo, comportamenti che si pongano al di là comunque del consentito per quanto riguarda il normale comportamento che da noi si attende il capitale, può produrre in un orizzonte metropolitano al giorno di oggi. Per quanto riguarda la dimensione degli ultimi anni in Europa, io intanto penso che l'elemento interessante sia già che si sia dato un orizzonte europeo delle lotte, che comunque non era scontato in anni passati, che invece negli ultimi 2 anni si è dato in maniera davvero prepotente, con un livello anche di conoscenza e contaminazione reciproca tra le soggettività di compagni, che comunque rappresenta sicuramente un elemento che ci darà sicuramente qualcosa di positivo per il futuro soprattutto. E io partirei a ritroso, nel senso che partirei dai Ligendam e da quella situazione ben poco metropolitana che i compagni sono trovati di fronte nel momento in cui sono trovati a fare chilometri e chilometri nei campi di cereali, cioè con gli elicotteri della polizia che scaricavano poliziotti appunto in queste enormi distese di grano, non so cosa fosse di preciso. Era una situazione, diciamo, più che altro surreale, che molti comunque di fatto non si aspettavano, cioè si è partiti già dicendo sì, saremo in aperta campagna, però in realtà molti di fatto non ci credevano, cioè no, è impossibile che saremo in aperta campagna, in qualche modo si troverà di non esserlo. Invece i compagni tedeschi hanno deciso che effettivamente noi avremmo affrontato comunque il sole, la fatica e il sacrificio, ma comunque saremmo andati là dove c'era il vertice, nonostante che questo potesse apparire inizialmente anche un po' bizzarro. In realtà il ragionamento che già ci avevano anticipato i compagni tedeschi nei mesi precedenti era un ragionamento che aveva degli elementi di interesse, perché loro dicevano a Genova nel 2001, nel momento più alto di contestazione al G8, si è messa in discussione una sorta di ingabbiamento delle manifestazioni dei movimenti all'interno della città, quindi la zona rossa, la zona gialla e comunque la repressione poliziesca comunque sulle strade per impedire che i cortei, che i gruppi di compagni potessero muoversi. Stavolta saremo noi a impedire i movimenti al personale politico che si deve incontrare per determinare appunto qualche modo il futuro di miliardi di persone sulla base di accordi stipulati tra pochi. E E bisogna dire che sicuramente questo è riuscito, ed è riuscito in una dimensione che, attenzione, adesso se si leggono i documenti delle intervenzionistiche Linke che ha pubblicato di recente, si vede che in Germania il dibattito è anche acceso, comunque ci sono anche delle contraddizioni, ci sono comunque anche delle autocritiche che alcuni compagni fanno, comunque ci sono delle dimensioni di discussione che al di là di tutto sono in ogni caso positive. Però penso che l'esperienza comunque abbia, se non altro, rappresentato qualcosa di nuovo, senz'altro a livello così estetico e del panorama, ma non soltanto, voglio dire anche più a livello politico, il fatto comunque di assumere anche un terreno scelto dall'avversario, ma di assumerlo fino in fondo e sfidarlo su questo livello, dicendo tu ci vuoi portare qui in un covo di neonazisti perché questo è Rostock, e in un luogo comunque deserto, e noi ci veniamo, siamo in grado di portarti comunque migliaia e migliaia di persone che sono anche in grado nella pratica di sfidare i divieti e via dicendo. Questo è un livello che io ritengo un po' differente dagli altri di cui mi accingo a parlare, perché comunque siamo sempre nell'ottica di un movimento di critica, non certo di critica alla globalizzazione, perché questo ormai dovrebbe essere dato assodato di movimenti, però di critica a un certo modello comunque di sviluppo e di messa al lavoro della forza lavoro umana, e questo è qualcosa che, diciamo, di innovativo di per sé a poco, perché come sappiamo è un movimento che per gran parte, per molti aspetti, può anche considerarsi in certe sue forme anche esaurito da tanti anni. È comunque sicuramente una riproposizione di certi temi e di certe pratiche che è interessante, però sul livello dello sciopero metropolitano, diciamo in senso più stretto, penso che da un lato ci sia il dato di Copenaghen, che anche lì noi abbiamo partecipato alle mobilitazioni, e quello che abbiamo visto invece, per esempio, è la ricchezza della soggettività che c'è a Copenaghen, proprio nel senso delle differenze da cui è attraversata, della in qualche modo particolare anche, non so come dire, effervescenza comunque c'è a livello artistico, a livello di produzione di linguaggio, a livello di auto-organizzazione e anche di saper mantenere una compresenza pratiche di conflitto anche molto diverse, portate avanti magari dalle stesse persone, dagli stessi soggetti nel giro di pochi mesi, quindi comunque anche una certa versatilità nelle lotte che hanno saputo mettere in piedi questi compagni, c'è da sottolinearlo, nonostante una repressione brutale, durissima e comunque inaccettabile che si è scatenata contro di loro sia negli scorsi anni, sia con la vergognosa demolizione del loro centro sociale, sia poi con l'ultima manifestazione che c'è stata, che peraltro, come noto, ha saputo anche assumere il livello europeo del lotto nel momento in cui è stato detto, bene, adesso noi cerchiamo di declinare a livello nostro qui a Copenaghen quello che è stata la tattica delle cinque dita di Heiligendamm, e quindi comunque creando un immaginario che coinvolge comunque esperienze che, vabbè, adesso Copenaghen e la Germania non sono così distanti, nel senso che si tratta comunque di realtà di movimento che hanno anche una storia in parte in comune, si riconoscono in delle pratiche già sedimentate, però comunque è sempre un segnale che si riprendono dei fili che vengono, diciamo così, che si dipanano ora in questo, ora in quel paese europeo. Ma io verrei invece ad altri due casi che secondo me sono importanti per declinare il discorso più nello specifico dello sciopero metropolitano. Uno è quello di Parigi, che giustamente è stato sottolineato da Giacomo, che sicuramente ha rappresentato innanzitutto, credo, qualcosa che pochi si aspettavano, cioè un livello così alto di conflitto, così massificato, così esteso, in quella che comunque è di fatto la metropoli più avanzata in Europa da tutti i punti di vista, anche proprio della produzione dell'immateriale, della produzione segnica, di questo livello semiotico e testuale del capitalismo, dove comunque da un lato c'è un grandissimo sviluppo a livello appunto di modernità della metropoli, dall'altro permangono comunque delle caratteristiche, e questo è un dato comunque sempre tipico del capitalismo, di grande regressione nel momento in cui è una città organizzata su basi pazzesche, con un centro comunque bene o male per pochi ricchissimo, dove c'è un certo tipo di produzione di merce, e poi comunque tutta una serie di suburbi che invece sono comunque lasciati a un altro tipo di vita quotidiana, un altro tipo di contesto sociale. E in questa città, che ha questo livello anche di difficoltà per una soggettività politica di mettere in piedi dei percorsi di conflitto, e questo qualunque compagno di origine lo conferma quando si parla con loro, comunque è difficilissimo anche solo a livello logistico mettere in piedi delle lotte efficaci in una città così grande, così complessa, attraversata da soggetti così diversi tra loro ogni giorno. Eppure proprio in questa città c'è stato il livello più alto di mobilitazione di conflitto, quello che ha prodotto più immaginario, più storia per il movimento degli ultimi anni, più carico di futuro sicuramente, ed è un movimento che è nato comunque sul livello della formazione e della precarietà, che sono comunque i due capitoli su cui sicuramente oggi i compagni e le compagne devono ragionare maggiormente. Da un lato i licei, che tra l'altro spesso si parla della lotta contro il CPE come una lotta di universitari, quando invece comunque grandissima parte di manifestanti, di scioperanti, di coloro che hanno fatto i blocchi erano liceali, e questo è importante anche perché i licei sono dislocati anche in periferia, e quindi c'è stato tutto questo ingresso di soggettività dalla banlieue che è arrivata anche attraverso i licei e le lotte, ma appunto anche gli universitari, e poi vabbè anche il sindacato comunque si è comunque accodato a questa lotta, è stato in qualche modo sovradeterminato dagli eventi e dai soggetti che in qualche modo hanno iniziato questo percorso, e si è avuta appunto questa stagione breve, intensissima di lotte, che ha messo in piedi delle forme di lotta che peraltro non è che siano una novità assoluta, perché andare a bloccare la stazione sedendosi sui binari, bloccare il traffico o occupare l'università, impedire l'ingresso agli studenti che non vogliono partecipare alla lotta, non è che lo vediamo oggi per la prima volta. E del resto è anche sterile poi mettere una barra in mezzo, il vecchio e il nuovo, come a volte si fa. In realtà poi è sempre un'iterazione di forme di lotta che si ripropone naturalmente in forma diversa a seconda dei contesti storici e diciamo sociali in cui si innesta. Però appunto anche se le forme possono essere semplicemente forme già esistenti però modificate e rese agibili in un contesto nuovo, quello che è cambiato, essendo il contesto stesso appunto a cui facevo riferimento all'inizio, qui c'è stata la forza di questo movimento, perché oggi comunque nel momento in cui gli studenti anche solo a Rennes o anche solo a Marsiglia o anche solo a Lione o a Parigi addirittura riescono a bloccare le arterie autostradali e quindi a bloccare il flusso continuo di merci che ci sono dalla metropoli alla sua periferia e via dicendo, pongono comunque il governo in una dimensione di tale difficoltà politica, ma anche di difficoltà pratica proprio nella gestione dell'ordine pubblico, che si può arrivare al mai visto prima, almeno per noi che, come si suol dire, siamo giovani, di un provvedimento di legge, cioè questa loi sulle égalité des chances, che era stata già approvata dal Parlamento, già approvata dal governo, già firmata dal Presidente della Repubblica, che nonostante questo è stata ritirata, quindi in barba a qualsiasi diciamo formalismo giuridico possibile, è stato soltanto il rapporto di forza che gli studenti hanno saputo costruire che ha portato a questo. E quindi questa è la lezione che ci viene data, e che sicuramente al di là di tutte le novità importantissime che ci sono, un dato, lasciatemelo dire, anche abbastanza vecchio, rimane abbastanza importante, cioè che soltanto col livello di conflitto, di contrapposizione, di scontro che si mette in piedi, anche col rischio che ci si vuole assumere, perché il Tribunale di Grande Istanza a Parigi ha celebrato migliaia di processi rispetto a quella vicenda, e le condanne non sono state poche, e comunque le persone che hanno dovuto pagare sono tantissime, ma sicuramente comunque hanno partecipato a una pagina della storia recente europea che non è assolutamente marginale, e sicuramente avrà delle ricadute future e ha avuto sicuramente a noi qualcosa da insegnare. E mi avvierei a concludere cercando di declinare da piemontese anche diciamo un discorso su blocco, metropoli e conflitto rispetto a quello che negli stessi mesi in cui a Parigi c'era comunque l'inferno nelle periferie e poco prima che ci fosse l'esplosione dei precari, degli studenti contro il CPE, c'è stato in Val di Susa, dove comunque abbiamo avuto l'episodio più importante a livello di costruzione di conflitto in Italia degli ultimi anni, che di fatto ha chiuso diciamo l'epoca del governo Berlusconi, che era stata aperta con il G8 di Genova, che è stata sicuramente un'esperienza ancora oggi da realizzare, di fatto è stata quasi soltanto una promessa ancora non adempiuta, quel G8 in cui ancora adesso ci troviamo a dover ragionare purtroppo su un livello di repressione, ma su cui in realtà dovremmo ragionare piuttosto un livello di eredità politica. E ha chiuso invece la Val di Susa con questo colpo di coda di movimenti che ha saputo dare rispetto al governo Berlusconi, una vittoria perché di fatto oggi ancora non si sono riaffacciati i carabinieri o la polizia sulla Val di Susa, ancora il Ministero degli Interni, il Ministero dei Lavori Pubblici non hanno neanche osato di fatto riaffacciarsi in quel territorio, che è un territorio dove non c'è stata, come a volte qualcuno sembra voler supporre, un livello di contrapposizione sulla nozione di territorio, di comunità, comunque in qualche modo retrograda. ma invece è stata una contrapposizione su un discorso sì di comunità, ma di comunità che si costruisce lì, in quel momento nella lotta, che quindi è un prodotto esclusivamente della lotta, perché chi ha abitato, abita in Val di Susa sa benissimo che non c'è mai stato questo senso d'appartenenza per la Val di Susa, assolutamente. Anzi, la Val di Susa era anche, aveva pure una brutta fama in provincia di Torino, perché comunque era pure un posto dove si pensava che dopo tutto non succedesse mai niente di divertente. In realtà qualcosa di divertente è successo nel momento in cui su un'iniziativa che è un'iniziativa del capitale, però al di là di qualsiasi chiaramente schematismo antimodernista, però semplicemente dal momento che anche l'innovazione, come ci avrebbe insegnato Gigi se fosse stato qua oggi, ha sempre un segno di parte, insomma, le persone che abitano in quella valle hanno saputo contrapporsi sempre su questo terreno qua del blocco delle comunicazioni che sono vitali per il capitale, per cui le ferrovie, nel momento in cui è stato sgomberato il presidio di Venaus, non soltanto le autostrade ma anche le ferrovie di tutta quella zona di valico sono state interrotte, e nel momento in cui uno snodo vitale per il commercio Italia-Francia e comunque per un commercio europeo viene interrotto completamente, esiste soltanto due cose per la forza pubblica, cioè l'intervento mano militari o la sconfitta politica. E visto che la Valle ha saputo anche praticare il livello della contrapposizione con la mano militare dell'avversario, per adesso si è trattato di una vittoria. Allora io penso che con questo brevissimo quadro sia emerso quello che volevo dire, cioè che da un lato il contesto nuovo fa sì che anche forme in apparenza vecchie di mobilitazione o di blocco assumano una configurazione innovativa, ma dall'altro che questi discorsi rimangono comunque rimarrebbero comunque del tutto teorici, del tutto vuoti, se non venisse rimesso, come mi sembra oggi venga rimesso un po' da tutte le realtà di movimento all'ordine del giorno, la centralità del conflitto, della contrapposizione, dell'incompatibilità totale e chiara con quello che comunque l'ordinamento istituzionale, l'arco parlamentare, i partiti, le vecchie forme di rappresentanza oggi in crisi. E a partire da questa eredità di movimenti europei penso che per i prossimi anni sia nostro compito, poi anche soggettivo, saper produrre qualcosa di conflittuale.